Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Certo, queste istruzioni sono importanti, ma non è... L'ho già detto una volta, lo ripeto, ho visto i tanti mail a questo riguardo che arrivano. Non è fondamentale che le seguiate. Certo, è un consiglio, però Eclettica può essere ascoltata in tanti altri modi. Giulio Caperdoni, in vostra compagnia. Giulio at Radio Rock FM è il modo che avete per raggiungermi. Eclettica in quattro parti ogni settimana. Questa è la numero 27 di 30 minuti ciascuna, dal martedì al venerdì, in onda alle ore 22, poi sommate a due, in due trasmissioni da un'ora ciascuna, il sabato e la domenica sempre alle 22, e sommabili in qualunque momento voi preferiate, in qualunque modo preferiate, con qualunque supporto lo vogliate ascoltare. Se l'avete scaricate con il supporto del podcasting, potete farle diventare per esempio un'unica trasmissione di 2 ore. A voi comunque la scelta di come fruire, o meglio, cambio verbo, di come godere di Eclettica. Se stai per metterti a leggere, evita. Tra un paio di pagine vorrai essere da un'altra parte, perciò lascia perdere. Vattene. Sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio hai del tempo da buttare, che so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore. Così magari riesci a tirare su 2 soldi. Ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto ringiovanire non ringiovanisce. Quello che succede qui all'inizio ti farà incazzare e poi sarà sempre peggio. Quello che trovi qui è la stupida storia di un ragazzino stupido, la stupida storia di vita vissuta di un tizio che mai al mondo vorresti conoscere. Questo coglioncello devi immaginartelo alto 1 metro e 1 cazzo, con una manciata di capelli biondi ben pettinati e con la riga da una parte. Questo stronzetto schifoso devi immaginartelo sorridente in una vecchia foto dei tempi della scuola, con qualche dente da latte caduto e i primi denti veri che spuntano storti. Devi immaginartelo con indosso uno stupido maglione a righe gialle e blu, regalo di compleanno, un maglione che una volta era il suo preferito. Questo era l'incipit di Soffocare di Chuck Palahniuk. There is this thing that's like touching, except you don't touch. Back in the day, it just went without saying at all. All the world's history gradually dying in shock. There is this thing that's like talking, except you don't talk. You sing. You sing. Sing for the bartender, sing for the janitor, sing. Sing. There is this thing keeping everyone's lungs alive. L'avevo già detto oggi quando lo trasmisi come pillola che con The Dresden Dolls avrei aperto Eclettica questa sera, l'eclettica serale di questa settimana, e così ho fatto. Infatti il primo brano che vi siete ascoltati dopo Palahniuk era Sing dal nuovo Yes Virginia da parte The Dresden Dolls per la Roadrunner Records, una novità, una presenza importante della chitarra all'interno di questo brano dei The Dresden Dolls. E poi ancora una voce femminile, quella di Chan Marshall, ovvero sia Cat Power, da The Greatest, disco che non è che abbiamo cagato poi molto, ci siamo ascoltati Could We, e così abbiamo in parte rimediato. Giulio at RadioRockFM.com, l'indirizzo che già vi ho dato, l'indirizzo per iscrivervi per esempio alla lista nera di Eclettica, come ormai abbiamo deciso di chiamarla. A proposito di questa lista nera, saranno anche le parole che leggerò di uno di voi, anzi di uno dei nuovi iscritti alla lista nera stessa. E Giulio at RadioRockFM.com è anche il modo che avete per vincere biglietti o dischi. Per esempio, se ne sono andati in un lampo settimana scorsa, tanti purtroppo a bocca asciutta, i dischi dei Mazarin in concerto gratuito il 12 di aprile al Circolo Magnolia all'Idroscalo di Milano. Se ne sono andati anche i biglietti dei Breaks, e fra qualche secondo capirete perché li ricito. Ma invece sto per mettere in palio altri biglietti, per esempio per due sere di seguito allo Zero Music Club di Azzano San Paolo il 13 di aprile, una serata organizzata dalla Jazz Tri denominata Rock Girl, in cui suoneranno assieme Love in Elevator, Haggish, Hodge e Boda, e poi la serata dopo Picastro, il 14 di aprile. E invece apriamo già anche le danze per i due concerti di Milano e di Torino, rispettivamente al Rainbow e all'Hiroshima, di Isobel Campbell, date del 24 e del 25 di aprile. Le apriamo un po' in anticipo, ma sapete, voi comincerete a viaggiare per Pasqua, i ponti vari, quindi è meglio organizzarsi per tempo. Perché vi ho recitato i The Breaks? Ve li ho recitati perché sono appena passati dall'Italia, quindi sono andato a riprendere la All Night Disco Party, che compare nelle playlist non di questa dodicesima ma dell'undicesima stagione di Eclettica veramente tantissime volte, però ce l'ascoltiamo in una versione diversa, è un remix da parte di Graham Sutton. All night disco party. nasty habit you got there. Yeah, thinking the shit out of my face, you think? Bunch of slack-jawed faggots around here. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Just like me. Yeah, strap this on your sore ass, Blaine. Hates everything, says everybody's wrong. She dressed like she slept with Guns N' Roses, but I busted her singing all the boy band songs. She had to go simply because, and I let her go like she never was, 'cause I didn't know. Joe Strummer was. Hey! At night, when we stood in line for hours, waiting to see my favorite punk rock band, I bled with the passion and the power. But she's only there for all the fashion trends with her clueless friends. She had to go. Ancora energici, vecchietti, fan ben sperare. Cowboy Mouth, The New Orleans, Voodoo Shop, il loro ultimo album, una canzone su come non si possa stare con una ragazza che non sappia chi sia tal Joe Strummer. Di qualunque colore sia, meglio variopinta che non uno stantio monocromo, mettimici in quella lista. Non che io voglia gravarti ulteriormente di estenuante lavoro, ma l'educazione data mi impone di accettare gli inviti, e dato che a ogni puntata inviti i tuoi ascoltatori, possiedi degli ascoltatori? Che sensazione dà? Eccomi. Lo so, mi sono fatto pregare un po', è più di 4 anni che ti seguo. No, non allarmarti inutilmente, intendo con le orecchie, non con i piedi. Ma sai, è un termine così usato. Sai, sono uno o una tua fan, ti seguo in tutti i programmi TV e radio. Quasi quasi ti viene di pensare che l'Italia sia un paese di molestatori pedinatori. Ma alla fine ho ceduto, hai vinto. Contento? Ringrazio molto il podcasting, io. 30 minuti di programma sono proprio insostenibili, come un panino per pranzo. Non lo godi e non ti soddisfa, giusto ti sfama. Perché è proprio grazie a Pod, sono già nomignoli d'amichevole confidenza, che ho potuto riprendere ed ascoltarti. Vedi, stavolta sono stato attento al termine, vorrei evitare di crearti inutili allarmismi. Ora, non so quale sia il compito della settimana, anche perché ti ascolto in un buon ritardo, qui è ancora inverno. Ma riguardo alle colonne sonore devo dire che non ne ho. No, il mio rapporto con la musica è assolutamente bionivoco. Non riesco a viverla come semplice sfondo che enfatizzi l'istante thrilling, erotico o drammatico, a mettere parole e colore là dove altrimenti non ce ne sarebbero. Mi vedo più come un video musicale, di quelli belli però, non quelli con la band che fa live, ma più sullo stile Radio Gaga, hai presente? La musica è l'unica cosa che non mi ritrovi affannosamente a inseguire, incespicando inevitabilmente su me stesso. Sempre al mio fianco, da che ho memoria. Ci incontrammo, porgemmo l'uno la mano all'altra, l'una la mano all'altro, e non le lasciamo più, con tutto quello che ne comporta, da non pensare che siano solo gioie. Io non uso lei non usa me, io lo ascolto e lei ogni tanto si lascia creare da me, fino a che morte non ci separi, se poi ne sarà in grado. Shine. was hurt so bad, she turned all her love inside her, hoping to feel better. There are those who love themselves more than anyone else. Well, they should know that sad affliction can be dangerous for their health. Anche alla chiusura di quella che è la prima parte di Eclettica, ce ne rimangono altre tre questa settimana. Lasciamo la voce inglese di Helen, This Is All We Have To Know, con la voce dell'Arkansas di Beth, ovvero sia The Gossip. Questa non è la solita Standing in the Way of Control, ma un'altra traccia, la numero 10 del loro disco, si intitola Dark Lines. Eclettica. Fine della prima parte.